L'altro pianeta di Laura Bettini. Bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, un pianeta che di solito purtroppo non è il nostro, ma che qualche volta sì, accade. Oggi vi raccontiamo, infatti, in questa nostra piccola favola di Natale, possiamo dire visto che siamo alla vigilia, quello che è stato fatto in pochi anni a Ponte nelle Alpi, 8.600 abitanti, provincia di Belluno. Un comune diventato virtuoso, anzi virtuosissimo, nella gestione dei rifiuti, oltre il 90% di raccolta differenziata, per scongiurare il pericolo di una discarica. Accadeva agli inizi del 2000, 4 anni dopo il forum dei cittadini che si era costituito per combattere quella battaglia contro la discarica, tradusse la sua voglia di fare in un progetto politico, presentato poi da una lista civica, lista che vinse le amministrative in quella occasione e poi ancora nel 2009. E la questione rifiuti stava al primo punto, perché non si può dire no alla discarica e contemporaneamente continuare a produrre rifiuti come prima. Ezio Orzes ora è assessore all'ambiente di Ponte nelle Alpi, ma fu anche uno degli animatori di quel movimento contro la discarica. Per dire la verità, io ho perso un po' di tempo, un paio d'anni nel cercare di convincere i comuni limitrofi al nostro di fare questa cosa assieme, no? Perché mi sembrava importante, noi su questo avevamo ormai le idee abbastanza chiare, avevamo un progetto, un piano industriale, insomma, che ci consentiva di dire che la cosa era non solo auspicabile ma sostenibile sul piano economico, occupazionale, anche per quanto riguarda i costi, e su questo abbiamo cercato di coinvolgere le amministrazioni limitrofe per fare finalmente, insomma, una cosa assieme. Ma ha perso tempo? Devo dire che abbiamo incontrato moltissime resistenze, ci siamo confrontati con molti luoghi comuni e alla fine, insomma, dopo 2 anni di tentativi abbiamo deciso di andare da soli perché eravamo sufficientemente convinti che la cosa avrebbe avuto una risposta assolutamente positiva dei cittadini, come poi è stato. E così il Consiglio Comunale passò all'azione solitaria. Approvò il progetto per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, predisposto dal Consorzio Intercomunale Priula, che agisce nella provincia di Treviso ed è un'autorità riconosciuta in materia. Un progetto che prevedeva, 1. Il passaggio da tassa a tariffa, così come indicato dal decreto Ronchi. 2. Il passaggio dalla raccolta di rifiuti tradizionale con cassonetto stradale alla raccolta differenziata spinta, porta a porta, quindi. 3. La creazione di una società multi-utility a totale partecipazione pubblica per la gestione dell'intero nuovo sistema. Ridiamo ora la parola all'assessore Orzes e in questa puntata con lui ripercorriamo tutta la storia e tutti i benefici ottenuti da quella scelta. Se pensate che sia una rottura, per così dire, suddividere i rifiuti, pensate che rottura sarebbe piuttosto avere una discarica vicino a casa o continuare a pagare sempre di più per lo smaltimento dei rifiuti, perché le discariche non sono gratis, no? Lo sapete? Ebbene, allora aprite le orecchie, cittadini di comuni grandi e piccoli, perché Orzes racconta una storia che può essere riprodotta ovunque. Gestire un cambiamento importante, che tra l'altro modifica in maniera radicale le abitudini dei cittadini, richiede progetto molto, molto puntuale, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda la gestione del servizio, ma anche per quanto riguarda la comunicazione e il coinvolgimento. I sistemi porta a porta devono essere pensati proprio con un cambiamento, identificando proprio dei momenti di separazione netta rispetto ai sistemi precedenti. Tutte le soluzioni miste alla fine non funzionano perché non fanno percepire proprio il cambiamento, e questo deve essere avvertito e comunicato, anche se è stato graduale, per cui nel giro di 3 mesi in tutto il territorio, che è stato diviso in 3 aree. Prima siamo passati naturalmente a confrontarci con i cittadini, successivamente abbiamo consegnato tutti i contenitori, che sono tra l'altro tutti georeferenziati, noi sappiamo di chi sono i contenitori e dove sono sul territorio. Abbiamo distribuito un calendario che poi ha aiutato molti cittadini per relazionarsi proprio con il soggetto che gestisce il servizio. E poi via via il servizio è stato avviato appunto in queste 3 aree e mano a mano abbiamo dismesso appunto tutti i contenitori stradali. Tutto questo è durato 3 mesi e l'intero progetto dalla partenza all'80% è durato poco più di 6 mesi. Noi a maggio del 2007 eravamo ancora al 23% e a gennaio del 2008 già avevamo superato l'80% della quota differenziata. La quota che voi avete continuato, diciamo, a rosicchiare è quella dell'indifferenziato. Quali materiali siete riusciti a recuperare, diciamo, dall'indifferenziato che non si riuscivano a recuperare? Beh, innanzitutto il dato incredibile che a mio avviso è ancora più significativo rispetto al 90% della raccolta differenziata è che noi portavamo in discarica prima 3.000 tonnellate all'anno di rifiuto indifferenziato e nel 2010 ne abbiamo portate solo 248, per cui abbiamo ridotto del 92% i rifiuti che prima portavamo in discarica, con una diminuzione di costi dai 475.000 euro ai 38.000 euro del 2010, perché abbiamo battuto la più importante voce di costo del servizio di igiene urbana. E naturalmente quando abbiamo raggiunto il 90% la curiosità di andare a vedere cosa c'era dentro quello che rimaneva c'è ovviamente. E con il sostegno di ARPA Veneto e del centro di ciclo di Vederago abbiamo fatto una serie di analisi merceologiche proprio sull'indifferenziato e abbiamo capito che dentro al rifiuto indifferenziato residuo c'era ancora una parte di plastiche sporche che correttamente erano state messe dall'indifferenziato e che però potevano essere recuperate come materia dentro un processo di estrusione che è un processo, insomma, abbastanza semplice e conosciuto per chi lavora nel mondo della plastica e che però ritrasforma sostanzialmente queste plastiche sporche in un granulato sintetico che poi può essere impiegato proprio nel ciclo produttivo. E la sperimentazione ha dimostrato che sostanzialmente il 50% di quello che rimane, cioè del secco indifferenziato che rimane, può ancora essere recuperato come materia. Beh, allora insomma bisognerà chiedersi se veramente servono tutte queste discariche e tutti questi inceneritori, perché è evidente che quello che rimane alla fine è frutto di un errore di progettazione. Non è più possibile che ci sia qualcuno nel terzo millennio che produca e metta sul mercato dei beni di cui non si sia pensato cosa accadrà alla fine del loro ciclo di vita. Proprio vista la vostra esperienza, i produttori locali, per esempio, hanno ripensato gli imballaggi di ciò che producono? I piccoli, ovviamente, perché la zona, dobbiamo pensare alla zona. Da noi poi sono sorte una serie di spontaneamente di attività, per cui un'azienda agricola ha aperto un distributore che vende latte crudo con grandissima soddisfazione da parte di tutti, c'è un negozio che vende prodotti biologici che però insomma ha messo su una linea di distributori di detersivi alla spina, per cui senza che si debba ogni volta comprare il contenitore. C'è un negozio, insomma, che ha aperto un reparto dove vende tutte le bibite vuoto a rendere. Questo per dire che poi insomma questi processi determinano anche dei cambiamenti culturali. Insomma, io dico sempre che al di là dell'impegno dell'amministrazione comunale, della qualità del servizio che siamo riusciti a dare grazie a questa piccola società in house, per cui 100% pubblica, e del comune di Ponte nelle Alpi che gestisce il servizio, ormai questo progetto è diventato proprio un patrimonio della comunità. Insomma, tutti quanti condividono questa iniziativa e sono anche orgogliosi dei risultati che abbiamo ottenuto e della visibilità che poi queste cose hanno dato ai comuni di Ponte nelle Alpi. Ah beh, certo, senz'altro. Senta, lei ci diceva prima, portando in discarica meno si, diciamo, spende di meno, ma si guadagna di più portando tanto materiale differenziato anche di qualità, perché è così precisamente diviso? C'è un ritorno economico? Beh sì, diciamo che quando noi parliamo di rifiuti stiamo parlando di materiali che hanno un valore di mercato, sono materiali preziosi che non ci possiamo più permettere di buttare sottoterra o di bruciare nei forni inceneritori. La caratteristica che li rende preziosi è il loro livello di purezza. Per cui raccogliere in maniera differenziata questi materiali puri, e in questo i sistemi porta a porta sono quelli che riescono a dare i migliori risultati, alla fine determina il fatto che il soggetto che gestisce il servizio ha a disposizione dei materiali che hanno un loro valore sul mercato. Noi siamo in contatto con moltissimi centri di selezione, non abbiamo contratti a lungo termine quasi con nessuno, a parte il centro di riciclo di Vederau con cui collaboriamo in maniera stabile, e di fatto poi questi materiali li mettiamo a disposizione sul mercato e li diamo ai migliori offerenti, per cui c'è una filiera che porta anche delle entrate interessanti, affine in parte ai consorzi nazionali che si occupano della gestione degli imballaggi, però alcuni di questi materiali hanno un loro mercato indipendente, ed è evidente che poi queste entrate o queste mancate spese contribuiscono a contenere i costi del servizio, che infatti è diminuito del 15% in 3 anni. Costi del servizio che non sono diminuiti e che dipendono anche dalla capacità del cittadino, no? Voi siete passati dalla tassa alla tariffa, nel senso il cittadino capace, sì, di differenziare bene poi spenderà anche meno. È proprio così. Noi abbiamo dei contenitori che sono tutti quanti, come dicevo prima, georeferenziati e hanno un sistema elettronico che li collega direttamente all'utenza, perché noi sappiamo quanti svuotamenti fa ogni singola utenza, sia questa un'utenza domestica piuttosto che un negozio. Una parte della nostra tariffa, cioè la nostra tariffa è composta da una quota fissa, una specie di canone, come il canone del telefono, che copre le spese generali del servizio, e poi c'è una parte variabile che è calcolata sul numero degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato, cioè del secco residuo, quello che rimane che non riusciamo ancora a riciclare. Sicché è, diciamo così, interesse di ogni cittadino differenziare il più possibile, perché più differenzi, meno rifiuto residuo ti resta, meno svuotamenti fai e meno paghi. Aggiungiamo che da quella quota di indifferenziato sono esclusi pannolini e pannoloni, che sono un qualcosa su cui non si può discutere, né per i bambini, né per gli anziani, né per le donne, insomma questo è necessario. Esatto, tutto volevamo forché non finire per penalizzare, diciamo così, alcune componenti della nostra comunità che invece riteniamo debbano essere sostenute, come le famiglie con bambini piccoli o gli anziani ammalati che hanno problemi di incontinenza e che avrebbero evidentemente un'elevata produzione di secco, per cui queste utenze vengono praticamente escluse dal calcolo tariffario e il costo dello smaltimento di questi pannolini fanno parte appunto dei costi generali. E tra l'altro so che questi pannolini adesso verranno raccolti separatamente e portati al centro di riciclo di Vedelago, dove è stato installato un impianto ideato dalla FATER, proprio adeguato, studiato apposta per il recupero di pannolini e pannoloni e assorbenti quindi per la persona in generale. Quindi da qui a un anno vedremo quali frutti darà questa raccolta differenziata nella differenziata. Senta, invece, meno spese per la discarica, più guadagno dei materiali di qualità vi ha consentito anche di dare più posti di lavoro. Ecco, questo è l'altro aspetto a mio avviso molto interessante, perché noi abbiamo, prima per svolgere il servizio venivano occupate 5,6 unità. Adesso abbiamo 11 persone assunte a tempo indeterminato che si occupano della gestione di questo servizio, che è evidentemente molto più puntuale, che comporta poi un numero maggiore di persone impiegate, e in più abbiamo anche delle collaborazioni esterne con una cooperativa sociale. Sostanzialmente attualmente diamo uno stipendio a 15 persone, per cui siamo passati dalle 5,6 alle 15 persone, pur riducendo il costo complessivo del servizio. Anche questo mi sembra un aspetto molto importante, perché abbiamo sostanzialmente trasferito una voce di costo che prima veniva impiegata per seppellire i rifiuti nella discarica in nuova occupazione. Senta, per chiudere, assessore, ricordiamo a chi dice che Ponte nelle Alpi è un comune piccolo con 8.500-8.600 abitanti che San Francisco, che è ben più grosso, arriva al 78% di raccolta differenziata. Quindi si può fare anche nei grossi centri abitati, con più, magari difficoltà diverse, con modi diversi, ma si può fare. Assolutamente, io credo che si debba fare, e credo che la politica debba trovare, diciamo così, il coraggio che a mio avviso già la gente ha. su queste cose. Io trovo spesso i cittadini su una posizione più avanzata della media della politica. È chiaro che a monte ci deve essere una scelta molto chiara e determinata. Quindi si parte senza indugi, ecco, non con le mezze vie. Senza indugi, però anche molto con i piedi per terra, per cui facendo appunto un progetto molto mirato sul territorio, un piano industriale, individuando il modello di gestione più efficace. Individuando i centri che possono servire, non solo come supporto, ma anche poi dopo per il recupero, il riciclo, eccetera, eccetera. Esattamente, e questa è una cosa che, voglio dire, oggi è veramente nella disponibilità di tutti. Vi ricordate quando all'inizio dell'intervista diceva l'assessore Orzes che ha perso tempo perché ha cercato di convincere i comuni vicini a partire con loro per la raccolta differenziata? Ecco, ora che a Ponte nelle Alpi le cose vanno così, le parti si sono rovesciate e non sono pochi quelli che bussano alle porte del municipio di Ponte nelle Alpi per sapere come hanno fatto a ottenere certi risultati. L'altro pianeta. Seconda parte dell'Altro Pianeta, in questa vigilia di Natale siamo pronti con Cristina Carpinelli a presentarvi un'altra storia. Purtroppo questa volta non è una storia di casa nostra, ma è pur sempre una bella storia da raccontare a Natale, per ricordarci, anche in questo caso, che si può fare tutto, basta decidere e partire. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Con il parere favorevole del 51,7% dei votanti, la congestion charge è diventata realtà a Stoccolma. La tassa è entrata in vigore ad aprile 2007, seguendo il modello che Londra o Singapore avevano proposto, cioè con un periodo di prova di un anno che è andato dal 3 gennaio al 31 luglio 2006. Durante la prova, a tutti i veicoli, tranne taxi, autobus, veicoli elettrici e ibridi e targhe straniere, nei giorni feriali veniva proposto dalle 6.30 del mattino alle 6.30 di sera una tassa da pagare. A periodo di sperimentazione concluso, il traffico in entrata e in uscita è diminuito di 500.000 di passaggi ogni giorno. E oggi, come sta andando? Lo abbiamo chiesto a Eva Söderberg, assessora al traffico di Stoccolma. We first implemented it as a trial. Per prima cosa, come primo effetto, abbiamo ovviamente visto una diminuzione del traffico interno alla città del 20%. Questo per quanto riguarda i primi 6 mesi di sperimentazione della congestion charge. Dopo il primo anno di sperimentazione abbiamo messo regole più severe e ci siamo accorti che il traffico in ingresso in città era ridotto, calato al 70-80%. And today the decreasing we have decreased the traffic by 18%. La gente come l'ha presa? Come hanno reagito all'introduzione di questa tassa? So che avete istituito un pagamento per entrare in città dopo un referendum, però vorrei capire come ci si è avvicinati, con quale spirito a questa scelta? All'inizio erano davvero contrari. Erano tutti negativi, l'intera opinione pubblica era contraria e negativa. Si parlava della congestion charge come fosse qualcosa che riguardava noi dell'amministrazione locale e non si capiva quali benefici avrebbe avuto poi sulla salute di tutti, sullo stile di vita di tutti. Oggi invece siamo tutti d'accordo nel proseguire con questa scelta, dal sindaco all'ultimo cittadino. Tutti hanno accettato e ora apprezzano quanto abbiamo fatto. Ma voi, prima di far partire questo provvedimento, avevate preparato la città? Cioè, avevate rinforzato i mezzi pubblici? Avevate fatto cose per la città stessa? Yes. When we first started to introduce congestion tax, we did a massive improvement of the public transport. Certo, 6 mesi prima di introdurre la tassa abbiamo fatto un piano di incremento massiccio di trasporto pubblico. Volevamo che la gente cominciasse ad avere l'opportunità di scegliere come entrare in città. Abbiamo aumentato le corse dei treni, dei traghetti, degli autobus. 6 mesi prima abbiamo iniziato, ma la gente non li usava molto. Hanno cominciato a cambiare i loro atteggiamenti e le loro abitudini quando abbiamo introdotto la congestion charge. Oggi ci sono tanti modi per muoversi a Stoccolma. Stoccolma. Ad esempio, alcune persone si sono organizzate e si muovono assieme in macchina. Abbiamo poi inventato delle formule di biglietti aperti per potersi muovere per una giornata e poter così fare shopping. Gli stessi negozianti che credevano di essere penalizzati oggi si stanno ricredendo. La città è più bella. Ma credo che il successo più importante sia stato quello di aver fatto capire a chi non si muoveva senza automobile che è possibile e che si arriva al lavoro più in fretta e più sicuri. To work much faster and much safer because there is less traffic. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è. Con Marco Carminati torniamo in Italia, un'Italia bellissima e lontana e per questo ancora più da tutelare. Articolo 9 è la nostra rubrica in cui ogni settimana ci ricordiamo che la nostra Costituzione, la Costituzione italiana, tutela il paesaggio e i beni storici e artistici della nazione. Ecco, buongiorno, sono Marco Carminati, mi trovo praticamente nel mare di Pantelleria e quel rumore che voi state sentendo di sottofondo è un rumore che ascoltano tutti gli abitanti di Pantelleria da parecchio tempo. Si tratta di strumentazioni che stanno sondando il mare di Pantelleria eventualmente per fare delle trivellazioni petrolifere. Questo rumore disturba noi, ma disturba soprattutto gli animali del mare che vengono completamente disorientati da questi frastuoni, ma quello che sta per succedere è un fatto abbastanza grave, perché in questo luogo dovrebbe appunto sorgere un impianto di trivellazione petrolifera. Abbiamo con noi in collegamento Alberto Zaccagni, che è il presidente dell'associazione Apnea Pantelleria. Buongiorno dottor Zaccagni. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, voi ci avete spedito questo terribile rumore e avete lanciato un allarme. Dove lei si trova sostanzialmente? Che cosa lei vede dal punto in cui si trova e che cosa potrebbe sorgere se dovesse sorgere un impianto di trivellazione petrolifera? Allora, dunque, in questo momento mi trovo a Pantelleria, è l'isola che ho adottato per vivere. E, da 3 mesi a questa parte sentiamo sott'acqua queste terribili detonazioni, che sono appunto questi air gun, sono sistemi sonori di ricerca di petrolio. E che cosa sta per succedere? Tutto il mare intorno a Pantelleria praticamente è stato lottizzato, è stato in concessione a società petrolifere minori che hanno intenzione, dopo aver fatto queste ricerche sismiche, come vengono chiamate, di procedere in trivellazione e poi eventualmente in estrazione di petrolio. Ecco. Ecco, questa cosa comporterebbe? Perché naturalmente il petrolio è un bene che serve a tutti, però bisogna saperlo cercare, soprattutto identificare dei luoghi che non abbiano delle controindicazioni. Invece che controindicazioni ci sono se si cercasse il petrolio lì davanti a Pantelleria? No, certo, concordiamo con tutti che il petrolio è fondamentale e che per un po', speriamo breve, non ne potremo fare a meno. Detto questo, comunque bisogna dire che ci sono zone come il canale di Sicilia e perciò dove si trova Pantelleria, che sono costellate da bassi fondali, che sono praticamente le nursery biologiche di tutto il Mediterraneo, ovvero sono la culla della vita del Mediterraneo. Certo. Inoltre a questo il Mediterraneo è diviso in due da questo stretto, lo stretto di Sicilia, che è zona di grandissime correnti e di scambi di nutrimenti e di correnti per tutto il Mediterraneo. Perciò un ipotetico, se per quanto remoto ma sempre probabile, che ha una certa probabilità, danno ecologico o sversamento o problema a una piattaforma petrolifera in questa zona pregiudicherebbe tutto il Mediterraneo. Certo. Noi sappiamo che per ricambiare l'acqua il Mediterraneo impiega almeno 120 anni, che vuol dire che per 4 generazioni nessuno vedrebbe mai più il mare pulito che noi abbiamo. Insomma, davvero, a quanto pare, davvero il posto sbagliato per un impianto del genere. Ecco, che cosa suggerireste se avesse la possibilità di farlo? Io non so in che relazione siete con queste società petrolifere, ma qual è il vostro suggerimento? No, noi in questo momento stiamo, diciamo, portando avanti la nostra lotta legale, perché questo è questo che ci ha consentito di opporci a queste ricerche e a queste ricerche petrolifere proprio in questa zona qui. Diciamo che la nostra zona, il nostro Mediterraneo e la nostra isola in particolare, come anche la Sicilia, è una zona ricchissima di energie sostenibili. Abbiamo il vento, il mare, il sole, abbiamo il geotermico, abbiamo tutto qui da noi. Ora, capisco che ogni cosa dobbiamo studiarla, ha un suo impatto e così via, però secondo me invece di impiegare tutte queste energie, tutte queste forze, tutti questi soldi per cercare nuovo petrolio in zone sempre più difficili, penso si dovrebbe andare avanti a investire in queste nuove fonti alternative. Questo è quello che pensiamo. Allora speriamo per Pantelleria che questa sia la strada da percorrere, senza appunto dover frastornare il mare con questi rimbombi e con questo suono, e naturalmente conciliare la bellissima isola con le necessità energetiche, magari come ha suggerito lei, trovando delle fonti alternative. Allora io ringrazio moltissimo il dottor Zaccagni, grazie. Grazie a voi. E auguro a tutti gli ascoltatori una buona giornata. Grazie a Cristina Carpinelli e a Marco Carminati per queste interviste. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, averci seguiti fino a questo punto. Per scrivere all'Altro Pianeta, l'indirizzo è l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e soprattutto buone feste. Appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora.